compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In giro con Medici Senza Frontiere in compagnia di Monica Triglia. Essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai. E con le parole di Oriana Fallaci cominciamo questo viaggio che è fatto certamente di coraggio, ma anche e soprattutto di donne. Sono con Monica Triglia e il coraggio è quello di Medici Senza Frontiere. Medici Senza Frontiere è la più grande organizzazione medico-umanitaria indipendente al mondo, creata da medici e giornalisti in Francia nel 1971. Oggi Medici Senza Frontiere fornisce soccorso umanitario in più di 60 paesi, a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da violenze o catastrofi, dovute principalmente a guerre, epidemie, malnutrizione, esclusione dall'assistenza sanitaria o catastrofi naturali. Medici Senza Frontiere fornisce assistenza indipendente e imparziale a coloro che si trovano in condizioni di maggiore bisogno. Medici Senza Frontiere si riserva il diritto di denunciare all'opinione pubblica le crisi dimenticate, di contrastare inadeguatezze o abusi nel sistema degli aiuti e di sostenere pubblicamente una migliore qualità delle cure e dei protocolli medici. Nel 1999 Medici Senza Frontiere ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Questo è un viaggio che ho molto sognato e ho molto respinto per molto tempo. Ero molto curiosa di capire chi fossero le donne che vivevano in paesi di cui mai nessuno parla, se non in caso di catastrofe gigantesca, ed ero anche molto curiosa di capire chi fossero le donne che, nate dalla parte giusta, se così possiamo dire, della terra, un giorno della loro vita interrompono carriere promettenti, complicano amori, salutano gli amici e partono per l'altra parte del mondo, quella dove la vita è difficile, è dolorosa, è misera, e lo fanno solo per dare una mano. Sono partita all'improvviso perché ho pensato che se avessi continuato a tormentarmi sull'opportunità di fare questo viaggio non sarei mai partita, e così un giorno ho deciso e sono andata in Pakistan, che è stata la mia prima meta. La prima meta, anche solo a nominarla, non ci lascia di certo indifferenti. Troppe volte si è nominato questo paese quale teatro di ingiustizie e sciagure. Ecco, ero partita con l'idea di raccontare le donne senza frontiere, le donne di Medici Senza Frontiere, le operatrici umanitarie, le dottoresse, le psicologhe che lavorano per queste popolazioni così miserabili. E però già in Pakistan, visitando il Sindh, questi grandi accampamenti tendati dove la gente è fuggita e ha trovato riparo perché le case di quell'area sono fatte tutte di fango, e quindi l'onda di piena dell'alluvione le ha praticamente disfatte, sciolte. Ecco, sono arrivata nel Sindh e lì ho capito che mai avrei potuto davvero raccontare le donne di Medici Senza Frontiere se non avessi raccontato anche le storie delle donne che loro assistono. She takes just like a woman. Yes, she does. And she makes love just like a woman. And she aches just like a woman. But she breaks like a little girl. Il primo impatto col Pakistan per Monica ha il volto di una ragazzina di 10 anni che il padre avrebbe voluto vendere come moglie a un vecchio in cambio di soldi. Soldi che sarebbero serviti per acquistare medicine necessarie a curare il figlio maschio, poiché la vita di un figlio maschio vale decisamente di più di quella di una figlia femmina da queste parti. Ricordo la strada che da Islamabad mi ha portato a Peshawar ed era congestionatissima dal traffico, auto in tutte le direzioni, gente per strada, gente sui muli, carretti, e io guardavo fuori e non riuscivo a vedere una donna, c'erano solo uomini intorno a me. E quando sono arrivata a Peshawar, per quanto poco mi sia mossa per ragioni di sicurezza anche, ecco, le donne sono per la strada, sono veramente molto poche e tutte coperte dal burka. Lì ho capito che la condizione femminile è davvero difficile, perché la dottoressa che mi ha accompagnata a visitare i progetti di Medici Senza Frontiere viveva con me in una casa dove soggiornava tutto il personale di Medici Senza Frontiere. E io ricordo la prima notte, era gennaio dell'anno scorso, del 2011, ed era freddissimo, la casa era senza riscaldamento, fuori c'era un buio pesto proprio per ragioni di sicurezza. Sai che il Pakistan, tutto il Pakistan, ma soprattutto il Pakistan del nord è soggetto a numerosi attentati, autobombe, e anche cose molto violente e crude. Ecco, era buio, era freddo, io non riuscivo a dormire nonostante avessi tutta la valigia addosso. Allora mi sono alzata per farmi un tè, e in cucina ho incontrato questa dottoressa che arrivava dal Kazakistan e che anche lei stava cercando di scaldarsi bevendo un tè bollente. E una tazza di tè bollente è sempre in grado di sciogliere gli animi anche in queste situazioni. Come se il mondo smettesse di fare rumore per un attimo e lasciasse spazio solo al liquido che scalda il cuore. E io in quel momento, così, solo, anche solo per cortesia, le ho chiesto: come stai? Cosa hai fatto oggi? E lei mi ha raccontato una storia che davvero mi ha sconvolto, perché mi ha spiegato di aver soccorso una donna che lei conosceva bene ma di cui non aveva mai visto il volto. Questa donna ogni settimana di fatto ricorreva alle sue cure nell'ospedale di Peshawar perché il marito la picchiava, e la picchiava davvero selvaggiamente. E io in quella notte veramente buia e fredda ho avuto una reazione brusca. Le ho chiesto: ma perché continui a rimanere qua se non puoi cambiare niente, se curi una donna che domani tornerà con le stesse ferite o forse ferite peggiori, se non puoi convincerla a denunciare questo uomo così violento? Ho avuto veramente uno scatto di nervi quasi, e lei mi ha risposto con molta pacatezza, spiegandomi qual è il compito delle donne di Medici Senza Frontiere, che è dar soccorso a chi altrimenti non avrebbe altro soccorso, dar consolazione, consolare chi altrimenti non avrebbe nessuno che la consoli, e cercare di dare voce a donne che altrimenti non avrebbero voce. Queste donne dell'area di Peshawar sono davvero donne costrette al silenzio se non ci fosse qualcuno come le dottoresse di Medici Senza Frontiere che danno loro voce. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In giro con Medici Senza Frontiere in compagnia di Monica Triglia. Il viaggio di oggi è pura emozione. Nel viso di Monica Triglia, che è qui davanti a me, si legge tutto prima che le parole escano dalla sua bocca. Le nostre mete sono legate alle donne di Medici Senza Frontiere, non solo le dottoresse, ma anche le loro assistite. Siamo partiti dal Pakistan. Ho visto nel mio piccolo girovagare per quest'area scuole femminili fatte saltare in aria dai talebani perché non vogliono che le bambine imparino a leggere e a scrivere, donne che sono state anche uccise perché capaci solo di dare alla luce delle bambine e non dei figli maschi. Ecco, questo viaggio in Pakistan, al di là della bellezza di un paese che quasi nessuno di noi ormai conosce più per le difficoltà che ci sono per raggiungerlo, e per, ecco, mi ha davvero colpito per le storie delle donne che ci vivono e che nonostante queste condizioni estreme riescono ad avere la forza di andare avanti, di resistere e di avere una vita loro nonostante tutte queste avversità. Questo grazie anche al supporto di Medici Senza Frontiere. Monica fa un respiro profondo, come a riossigenare l'anima che ha rivissuto nel racconto quell'esperienza. Pochi istanti e siamo pronte a ripartire. Dopodiché sono partita, sono tornata dal Pakistan e sono partita per Haiti. Haiti ci sono arrivata un anno e mezzo dopo il grande terremoto e già atterrando a Port-au-Prince e vedendo dal finestrino questa enorme tendopoli che avevo sotto, accanto all'aeroporto, di fatto ho capito che è un paese dove è come se il tempo non passi. E sono scesa a Port-au-Prince, la capitale, e ho trovato una città che era la stessa di quella che doveva essere il giorno dopo il terremoto. La città era piena di macerie, di case crollate che nessuno ha mai rimosso, dove la gente aveva trovato rifugio nelle piazze, nei giardini trasformate in tendopoli, oppure viveva sotto le solette delle case sventrate, dove aveva ridato vita a piccoli commerci, o i bambini giocavano saltando da un piano all'altro di queste solette sventrate. Mi sono chiesta, percorrendo la strada che mi portava in centro, cosa sarebbe stato in caso di un'altra piccola scossa. Anche lì ho capito che un paese può diventare parte di te solo se raccogli delle storie di persone che ci abitano. Io sono stata accompagnata da una psicologa di Medici Senza Frontiere che arrivava dalla Colombia, da Bogotà, dove tra l'altro si occupava nella sua vita normale, tra virgolette, di coloro che venivano liberati dopo anni di rapimento dalle FARC. Quindi aveva già di per sé un lavoro molto intenso e aveva deciso di interromperlo per 6 mesi, un anno, proprio per andare a dare una mano a qualcun altro, nonostante nel suo paese ci fosse così bisogno. Ecco, e grazie a questa psicologa di Medici Senza Frontiere sono riuscita a incontrare una donna che ogni mattina dal campo, dalla tenda dove viveva, ritornava sulle macerie di quella che era stata la sua casa per cercare sotto le macerie il figlio che non aveva più visto da un anno e mezzo, di fatto, e nel suo delirio di dolore sperava addirittura di ritrovarlo vivo. È una storia questa che mi ha accolta a Port-au-Prince, che è la capitale, ed è una città che dà davvero l'idea di un paese che patisce qualche... Io l'ho chiamata qualche maledizione, perché se non è il terremoto è l'uragano, se non è l'uragano è l'epidemia di colera. È un paese che appena alza la testa viene di nuovo colpito da una grande tragedia. Siamo ad Haiti, per la precisione nella sua capitale, Port-au-Prince. Quasi non interrompo Monica perché il suo racconto lascia davvero senza parole. Port-au-Prince, quando sono tornata a casa, ho cercato una parola mentre scrivevo questo capitolo dedicato ad Haiti, cercavo affannosamente un termine che lo potesse rendere. Alla fine mi sono arresa a un termine molto banale che è inferno, perché quello che ho visto è davvero quello che credo possa essere un inferno. Io ricordo, il traffico a Port-au-Prince è congestionatissimo, è possibile restare fermi, bloccati in mezzo a auto che vanno in ogni senso, carri, a animali, per ore e ore. E ricordo che un giorno, mentre cercavo di allontanarmi da un quartiere dove avevo visitato un ospedale di Medici Senza Frontiere, mi sono inchiodata di fatto accanto a un'enorme montagna, posso dire, di rifiuti. di rifiuti che marcivano, e a un certo momento, guardando fuori, mi sentivo abbastanza male perché ero così compressa tra tutto quel traffico, quei rifiuti, il caldo. Ho cercato di aprire il finestrino, ma l'aria era pesantissima e quindi ho chiuso il finestrino. E allora, per cercare di resistere, ho cominciato a pensare che poco distante c'era il mare. Perché poi a Porto Pranzo è così, se riesci a non guardare quello che hai alle spalle, hai davanti un mare bellissimo, il mare dei Caraibi, poi ti giri e ti rendi conto dove sei. Siamo ai Caraibi, è vero. Pare impossibile associare a quello che dovrebbe essere paesaggisticamente un paradiso la parola inferno. Ebbene, mentre ero lì chiusa nel traffico, ho visto qualcosa muoversi in questo enorme mucchio di rifiuti. E ho pensato che fosse un topo per un attimo, e io sono un po' fifona e quindi ho fatto quasi un balzo in macchina anche se ero chiusa dentro, e invece ho visto all'improvviso uscire un bambino e il suo cane accanto, e sono rimasta senza parole perché uscivano insieme e c'era questo rapporto di amicizia tra il bambino e il suo cane. Il cane aveva in bocca una specie di buccia di banana, il bambino qualcosa che non sono riuscita a individuare, e si sono allontanati passo dopo passo accanto, con questa cosa che avevano recuperato in questi rifiuti, e mentre li guardavo allontanarsi, è passato accanto a me una specie di motorino a tutta velocità. E sul parafanghi aveva una scritta in francese che in italiano tradotta è: un'altra Haiti è possibile. E lì io ho pensato: quale sarà l'altra Haiti possibile? E questa immagine di questo bambino e di questo che si allontana col suo cane in questa Haiti altra che forse è possibile, ecco, è quello che ho portato con me dalla capitale Port-au-Prince. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In giro con Medici Senza Frontiere in compagnia di Monica Triglia. Prima è stato il Pakistan con le ferite delle sue donne alleviate dalle dottoresse di Medici Senza Frontiere. Poi Haiti, segnata da terremoti, alluvioni, epidemie, dove davanti a una tazza di tè bollente Monica ha capito, parlando con una dottoressa, che la missione di Medici Senza Frontiere è dare voce a chi altrimenti non avrebbe voce, anche quando la speranza sembra svanita. Il carico emotivo si fa sempre più forte. E poi sono andata in Guatemala, la città del Guatemala, a visitare uno dei progetti più coraggiosi di Medici Senza Frontiere. È un progetto tutto al femminile, lo staff che ho incontrato era composto da tutte donne, perché si occupa della violenza sessuale. Io in Guatemala, che trovo un paese bellissimo peraltro, ero stata pure in vacanza qualche anno prima, ma il circuito turistico di un paese non è mai quello della vita vera della gente che ci vive, appunto, che ci abita tutto l'anno. A Guatemala City e in tutto il Guatemala c'è questa grande tragedia dello stupro di massa sulle donne, che è il retaggio di una guerra civile durata 30 anni e che ha lasciato dietro di sé questo machismo esasperato. Gli uomini dimostrano il loro potere usando violenza sulle donne. E io di questo problema naturalmente sapevo prima di arrivare a Guatemala City, ma non si è mai preparati a sufficienza a guardare negli occhi, ad esempio, una ragazza di 18 anni, la prima che ho incontrato nel centro di Medici Senza Frontiere, una studentessa di medicina, che con grande, facendo coraggio a me in realtà, più che io a lei, mi ha raccontato la sua di storia, analoga a quella di molte altre ragazze di Guatemala City. Sul Guatemala sento che non riuscirò a trattenermi e il racconto che segue rende piano piano più lucido il mio sguardo. Ecco, Guatemala City è una città molto bella e con una violenza inimmaginabile, una violenza radicata dentro la gente. Le donne, le mamme, le madri dicono alle figlie che nella vita accadrà una volta almeno a loro un episodio di violenza e che la violenza sessuale è qualcosa di normale, che fa parte della vita. Ed è molto difficile affrontare per chi arriva da un paese occidentale come il mio, ad esempio, una situazione del genere. È molto importante per questo il progetto di Medici Senza Frontiere, perché non soltanto dà cure mediche e psicologiche alle vittime di violenza sessuale, ma cerca di cambiare la cultura. E passo dopo passo qualche risultato si ha. Per esempio, 3 anni fa in Guatemala è stata approvata una legge contro il femminicidio, che detto così è terribile, ma che è comunque il primo passo nel riconoscere che il crimine contro le donne, che non soltanto vengono violentate, ma vengono spesso uccise, maltrattate, picchiate. Mio fratello che guardi mondo non somiglia a te, mio fratello che guardi il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Ancora con gli occhi lucidi cerco di capire meglio insieme a Monica come si possa intervenire in questo paese e sulle sue donne violate nel corpo e nell'anima. Ecco, questo processo lunghissimo è un processo culturale innanzitutto, e mi ha molto colpito vedere lo staff di Medici Senza Frontiere composto quasi tutto da donne del Guatemala, da medici e psicologhe del posto, perché è più facile per una vittima di violenza poter parlare con un medico o una psicologa che del tuo paese, che parla la tua lingua. E parlando con loro ho chiesto: ma non avete mai pensato di scappare da questo paese? Perché di fatto sono donne, quelle che io ho incontrato erano donne colte, laureate, e il mio primo pensiero è stato con queste giovani dottoresse, trentenni, che uscivano di casa la mattina per andare in questi ambulatori e aiutare le vittime di violenza, ma rischiando loro stesse la stessa violenza delle loro assistite. E quello che mi ha fatto capire che qualcosa davvero è possibile è che tutte mi hanno risposto di non pensare, di non aver mai pensato di lasciare il paese, di essere lì per aiutare il paese, il loro paese a cambiare, e di essere lì per aiutare la gente del loro paese a ricominciare a vivere dopo un fatto di violenza così terribile. Piango in silenzio e ascolto le stesse lacrime nelle parole di Monica. Questo è stato sicuramente il viaggio che mi ha fatto più male, perché davvero è complicatissimo. Ho visitato un ospedale a Guatemala City con molti reparti. È arrivata nel reparto dedicato alle bambine che avevano subito violenza sessuale, mi sono girata e sono scappata perché vorrei trovare le parole per spiegare cosa si prova a vedere una bambina di 3 anni in un letto di ospedale dopo aver subito certe violenze. Ecco. Da qui nasce la mia convinzione che questo progetto che ho avuto la fortuna di conoscere è sicuramente uno tra i più coraggiosi e forti e importanti tra tutti quelli di Medici Senza Frontiere. E di coraggio ce ne vuole davvero parecchio, ma ora ci prepariamo per tornare a casa, in un certo senso. E poi sono andata a Lampedusa. A Lampedusa, che è Italia. E Lampedusa, voglio dirti innanzitutto che è un'isola bellissima. Ci sono arrivata a maggio dello scorso anno e non ero mai stata prima. Io sono donna di montagna e non di mare, e quindi non avevo mai visitato quest'isola stupenda. E voglio dirti anche, prima di raccontarti quello che ho visto, quanto grande sia la solidarietà della popolazione di Lampedusa nei confronti dei migranti che sbarcano sulle sue coste. Abbiamo letto tanti articoli di proteste, di rivolte della popolazione. Ecco, io non ho mai visto nulla di tutto questo. La mia prima notte sul molo, mentre arrivava un barcone assurdo, una barca marcia dove avrebbero potuto trovare posto forse 30 persone ed era carica di 400 migranti che arrivavano dalla Libia. La guardia costiera aveva avvisato i soccorritori sul molo che tra questi migranti c'era anche una donna che aveva partorito in mare. E ad aspettarla alle 3 di notte sul molo c'era un gruppo di mamme di Lampedusa, donne che vivono abitualmente a Lampedusa, italiane che hanno i loro bambini, che crescono i loro bambini su quest'isola bellissima, che erano accorse con biberon, piccoli tutine, vestitini, insomma tutto ciò che occorre a un neonato. Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai. La chiamano speranza, ma a volte è un modo per dire illusione. Ci penso da lontano ed ogni volta è come avvicinarti un po'. Per ogni anima tagliata, l'amore è sangue, futuro e coraggio. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In giro con Medici Senza Frontiere in compagnia di Monica Triglia. Pakistan, Haiti, Guatemala e infine Lampedusa. Monica Triglia mi sta portando con sé a conoscere le donne di Medici Senza Frontiere e le donne che loro assistono. Siamo tornate in Italia per vivere la storia delle migranti, delle donne che arrivano nella notte su barconi affollati di speranza e di gente. L'immagine che Monica ricorda dell'isola è quella della dottoressa di Medici Senza Frontiere che, prima ancora di controllare la salute di questi poveretti, li accoglie uno per uno con una carezza. E pensa che una carezza può essere niente se pensi davvero a ciò che hanno passato queste persone, non soltanto durante il tragitto in mare, ma anche nei loro paesi d'origine. Sono quasi tutti migranti dell'Africa subsahariana, o che arrivavano dopo essere transitati per la Libia e spesso per le prigioni libiche, dove erano stati torturati, maltrattati, le donne più che gli uomini addirittura. E quindi se pensi a tutto quello che avevano alle spalle, una carezza è niente, ma forse una carezza può essere tutto. Se pensi che tu stai arrivando in un paese che non sai neppure qual è, che hai davanti una vita che non sarà facile, che sarà difficile come quella che hai lasciato, anche se sotto un altro punto di vista, se hai detto addio per sempre al tuo paese, alla tua casa, alla tua gente, alla tua famiglia e non sai cosa ti aspetta. Un'altra immagine che ricorda di Lampedusa, prosegue, è il cimitero arroccato nel punto più alto dell'isola. Accanto alle tombe, che hanno tutte lo stesso nome, perché poi di fatto le famiglie di Lampedusa si chiamano tutte allo stesso modo, ci sono queste lapidi dove nella calce è stato inciso soltanto extracomunitario. Sono persone di cui non si sa il nome, non si sa l'età, non si sa la provenienza e che sono state ripescate dal mare. L'immagine delle donne di Lampedusa che a volte mettono un fiore anche qui è un altro segno di quanto grande sia il cuore dei lampedusani. E ora ci prepariamo per l'ultimo viaggio, destinazione Malawi. Malawi, il problema grande è l'AIDS, che insieme alla malaria di fatto stermina la popolazione. Malawi è un paese dove non c'è davvero niente, e dove non ci sono i farmaci, dove c'è qualche ospedale ma non ci sono medici, perché i pochi ragazzi del Malawi che riescono a laurearsi vanno in Sudafrica a lavorare, perché in Sudafrica gli ospedali pagano bene e in Malawi non si è di fatto pagati. Ecco, nel grande ospedale di Blantyre, dove sono arrivata percorrendo una di quelle strade sterrate con la polvere rossa che ti rende tutto rosso alla fine, ho incontrato una sola medica, una sola dottoressa, che era una dottoressa di Medici Senza Frontiere, un'italiana peraltro, un'infettivologa, che stava formando quelli che sono gli infermieri di quel paese, e che di fatto hanno la funzione del medico. Fanno un corso per imparare a operare, a cucire, a soccorrere. Talking about you a main, always ready to go. Now when it comes to moving, babe, you're awful slow and high. L'AIDS è il vero problema del Malawi. I Medici Senza Frontiere distribuiscono medicinali e conoscenza. Monica si avvicina una mattina a una delle tante donne in fila per prendere le medicine e le chiede di raccontarle la sua storia, che poi è la storia di tante altre donne come lei. Ebbene, questa ragazza solo durante la quarta gravidanza si è accorta di essere sieropositiva, e da quel giorno ogni mese arriva dopo una notte di cammino nell'ambulatorio di Medici Senza Frontiere. E in quel momento era uscita questa giovane 25enne tedesca ostetrica di Medici Senza Frontiere, le aveva dato in mano la scatola di farmaci, le aveva detto: mi raccomando, una pastiglia al mattino, una alla sera, sempre alla stessa ora, perché altrimenti non funziona. E io ho detto: ma come fai a sapere quando devi prendere i farmaci? Perché in Malawi non ci sono gli orologi. E lei mi aveva spiegato che, sì, è vero, lei non aveva un orologio per controllare l'ora al mattino e l'ora alla sera, ma che i suoi farmaci li prendeva guardando le sue galline. Quando al mattino uscivano dal pollaio prendeva i farmaci del mattino, e quando alla sera rientravano nel pollaio lei prendeva la dose di farmaci serale. E anche questo è un piccolo aneddoto, ma ti fa capire la forza delle donne, queste donne che davvero non hanno niente e che dal niente riescono comunque a trovare la soluzione o comunque il modo per poter affrontare problemi che a molti di noi, nati da questa parte della terra, che io non so se definire giusta, ma comunque certo la parte più ricca e la parte più dove la vita comunque, nonostante tutto, è molto più facile. Ecco, queste donne nate dalla parte sbagliata, come ogni tanto dico io, ecco, sanno reagire e sanno comunque sopravvivere per sé e per i loro figli. Ed eccoci alla fine del viaggio. Non ci sono parole da aggiungere a quelle di Monica, se non un grande grazie per aver condiviso con noi queste emozioni. Malawi è stata l'ultima tappa di questo viaggio, che per me davvero è stato qualcosa che non dimenticherò mai, ed è stato anche, rientrata in Italia, ho anche pensato: adesso basta, voglio dimenticare tutto quello che ho visto. Stupidamente l'ho pensato, e poi dopo pochi giorni ho capito che un viaggio così non si dimenticherà mai più, me lo porterò con me sempre. E certo, anche se poi uno ritorna alla vita di tutti i giorni e affronta i suoi problemi, che poi diventano i problemi veri, ecco, c'è qualcosa dentro di me che mi fa dire, che mi fa ricordare, ecco, che c'è un'altra parte del mondo dove la vita è tanto diversa. E se ho fatto questo libro è giusto perché vorrei che qualcuno, anche pochi, leggendo qualche pagina, qualche giorno, ricordasse cosa c'è di là, ricordasse che c'è un altro mondo di cui non si parla appunto mai, e ricordasse anche di quanto grande e importante è l'impegno di Medici Senza Frontiere a favore di questo altro mondo. Ora Monica Triglia è in libreria con L'altra faccia della Terra, edito da Mondadori. Yes, she is. Think about it. Woman is the name.